Berlino. 5. Questo è quello. Il 34 come quello che c'è tu, come il caffo normale, quello che mi hai dato tu. Ho capito, cos'è? È troppo alto. Paletta, aspetta che abbasso. Paletta, è questo? Mi senti adesso? No, sono bella, bella. Guarda così, va meglio? Questo è il microfono che mi ha dato tu, quello palmare col 34, FM34, baracchino. Ah, quello lì. Io, attaccato al mixer. Questo l'ha attaccato una cannolata. Sì, perché è attaccato al mixer? Ah, infatti l'ho già detto l'altro giorno, te lo faccio sentire attaccato al mixer. E beh, posso cambiare i bassi, gli alti, i medi, vedi, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Che bene, io ho sbagliato adatti questo qua di microfono, si potevo dare l'altro, l'ho detto che era 5 punte, questa è l'altra radio, invece con quella radio se lo funziona è senza microfono. Questo è a 4. A 4? Sì, questo qua è a 4. Ho cambiato il connettore del microfono perché era a 6 e l'ho messo a 4 per metterci questo microfono. Si poteva dare l'altro, infatti era il microfono che era a 4, si poteva dare l'altro che era a 5. Beh, io in tutti i casi lo dovevo cambiare. Sì, c'era la drudda. Cappa. C'è l'MB più 4 qua che sta ridendo, si vorrebbe lì, ma purtroppo non si può. Allora, lo mettivi in quella radio l'MB più 4. Vediamo un po'. Microfono Inuiti. E Farfallino lo senti oggi? Farfallino. Natalino Farfallino. Già prenderai il tributo a Natalino. Allora, non c'entra ancora, no? E tu, aspetta che stacco con la radio lì, accendo, che sta andando il disco. Sì. Che fa? Mi lascio, mi hai dato qualche cosa più di disco. Ehi, prima che... prima che ti le avvolgo. Guarda che cambia da così il segnale pure, ma il segnale come c'è lì? 9.30. Certo. Guarda questa modulazione. Questo è molto più forte come radio. Il segnale è uguale. Andare. Cazzo, e l'antenna è dentro casa. Va meglio. Ma l'antenna è dentro casa prima, Alla benedetta. Cazzo, vado in quattro stazionari, ma se non è in tuo caso. Ah, ma ho provato due secondi, adesso è quella di fuori. Adesso è quella di fuori. Le imbarano gli appaccano di sì. Qua, Pasquetta. Mi sa che piove. No, perché ci sono l'addito. Cazzo, quando organizzi piove. storia, vabbè, guarda come tutti gli altri. E poi col fatto che adesso anche qua in zona non fanno più mettere, cazzo, ma manco prima la gente se ne parava i nonchi, Pinetta, allora manco più chi su quello. Oh, non per entrare, a Pacamo è tutto chiuso, sono passato ieri e tutto trasennato, tutto. Ti ricordi che prima entravi fino alla spiaggia con la macchina, ma è tutto giallato. Sì, è un casino perché non puoi metterla neanche in strada. Prima almeno parcheggiavano tutti nel bordo strada e andavano al mare. Adesso neanche lì, perché dentro lo fanno più parcheggiare. Cioè, dimmi tu, se ne paravi dalla macchina devi già in spiaggia, ma non puoi più fare. E neanche in strada puoi parcheggiare, il casino è quello, cioè ma si offende una boccaria, si offende, sennò i cabinetti, ti so, s'arrendi, recintendi, ripari nei mondazzai, barina va. Ma pile capita, la gente la manco si fa dei bikini che si fa. Ah, lo sai perché? Perché adesso ti spiego, loro l'hanno fatta anche per i parcheggi a fare l'appagamento. Vai lì e paghi il bar parcheggio. Se te la ciappano in vola, sono cazzamari, multe serate. Eppure hanno fatto pure perché lasciavano troppa mondezza nelle pinette, un bel di mondezza. Ma mi amani e la camani di bucchi appiccati all'aibuli. Sì, lo so, però così avrebbe giurato il buco, chiudendo le pinette, buco. Hanno fatto una bucaria. È un casotto, intanto a pagamento non ne fate, cioè le hanno chiusi i parcheggi e boh, ha capito? Così che non hanno risolto il problema, l'hanno peggiorato e boh. Ma dove hanno messo a pagamento quello del terzo, da un anno lo buoni, un anno ne lo buca, ne lo pagamento, ma cari dai. Ma io a Platamona sono una bellezza, quando andavo a Platamona in pinetta sono minimo più di 15 anni in pinetta, quando andavo in pinetta lì a Sesto, dopo il Sesto, tra il quinto e il sesto andavo. Poi andavo lì dalle parti di Alghero, da Maria Pia, che lì lo stesso c'è la pinetta, tu puoi stare lì in pinetta lo stesso, però c'è un parcheggio tutto a pagamento lì. Infatti poi sono io che la bozzinera a me, andiamo a Pazzona dove ci vanno, capito? E il clima l'hanno fatto a pagamento lo stesso, sono andato, cos'è? Sarà un paio di settimane fa sono andato lì a Grimaldo, anche lì hanno fatto a pagamento. A volte sì, a volte non c'è il custode, è tutto magna magna ai chivi, yeah. E quando vedevano i camper ce li facevano mandare, anzi chiamavano i balancilli per farceli mandare via, e se non se ne andavano ne mettevano anche le barbare, secondo se c'avevano qualche bracciale o qualcosa. No, il primo anno no, il primo anno facevano 5 euro le macchine e 10 euro il camper. Poi la mattina dopo passavano, perché sapevano che molti campeggiavano lì, e le tornavano a chiedere i soldi per tutto il giorno, capito? Ma noi ci facevano così, passavano e ci chiedevano gli altri 5 euro, perché appunto la mattina due righivi, sì che tutti quasi baga la torre o un barcheggio. Ma vai vai, oh yeah, per carità si parla di neanche più a mare, di baga finza l'aria di vada nel baga fra un poco. Ma sai cos'è? Che prima il primo anno arrivavi con la macchina fino alla spiaggia, perché io quando mi caricavo il barbecue, mi caricavo tutta la roba da campeggio, le tende, e arrivavo fino proprio alla duna, senza alla spiaggia, capito? Adesso non lo puoi più fare perché hanno messo i blocchi cemento, i paletti, si che tu devi fare più di 100 metri a piedi per arrivare alla spiaggia. Ma vai vai, anche lì l'hanno chiuso e rovinato. Se vuoi parcheggi fuori, se ne trovi, e t'avvi a piedi, mi sgancio. No, tu avrai la vostra fame un chilometro e andare in spiaggia, quelli che andrei appresso e vuole al piso, ma non penso proprio. Purtroppo è così. Parcheggi fuori, ti vai due o tre viaggi a piedi, a chi che hanno bambini robe così, Bene, vai presto che se non acciappi manco un buco acciappi. Ma almeno deve andare così. Arrivi sei mesi deve essere lì, perché se no piove niente. E così dopo il mese estivo, il mese di luglio, agosto, la gente ci campeggia pure. E così che hanno rovinato tutto. Noi avevamo la piazzola lì, nel primo anno, la prima proprio. Però non puoi fare niente, perché ti facciano il dutto. L'avevo sistemato il roulotto, ma certo, dopo arrivi l'inverno e ti rifacciano. Ma entravi e a te fa nuda, a che uno non è manco la sua roba dentro il roulotto. Però intanto ti facciano gli anni, i vacconi. Ma non va bene, devi avere certo un posto per metterlo. Se lo lasci lì, la madre la gente ti dirà bene. Ma lì ci sono sempre state da una vita le roulotte, non è che le portavi ogni anno. Ci stava tutto l'inverno, perché la piazzola era privata, non è che era in affitto, era privata, sì, che con tanto di recinto e rimanevano lì, capito? Solo che non potevi farci niente, perché qualsiasi miglioria che facevi poi durante l'inverno te la distruggevano. Era la comodità solo che eri già lì. Non lo so, io quest'anno, anzi la roba sempre sono andato ma nulla male, figurati, ma nulla. Manco una busta, bugia mia, una volta che sono andato a casa di mia sorella al vero, una volta con Vanni siamo andati un attimo a Maria Pia, ma cosa siamo usati, nulla, ne manco. Cazzo, sono arrivato la borsa a frigo, è andata la rocca, era, e mi vendi vita, con il mio moglie mi vendi vita. E poi non stavi andando anche con Mario. Con Mario? E a Mario? Mario Meloni. No, non si sono mandati a Mario, con Mario Meloni. Sì, mi hai detto che da buono quando andare più a chi per la moglie, sì che tu eri azzurro, mi hai detto non quando più. Non ci siamo, con Mario non ci siamo andati, al mare siamo andati con la scuola, una buccia, siamo andati con la cura, ma con lui non siamo andati al mare. Così mi avevi detto. Che ci eri andato ma non ci andavi più a chi era di due, della moglie. No, voleva che arrivavo, che andavo, ma cosa andavo io? Io allora ancora non mi ero messo con nessuno. E voleva che andavo insieme a loro, ho fatto no, andate voi, no, non ci vengo io. Sì. Via, pa. Comunque vanno bene queste radio. Per questo che piglia un bel blatter biglia il suo baracchinetto, però attaccato al mixer fa la differenza, il testo. Quindi è da metà, ma un male. Io ce l'ho ancora quello lì, ce l'ho dentro la scatola quello lì, però è 34 canali, col microfono suo originale. Questo è 40, però c'ha un segmento che non si accende, ma è piccolissimo, comunque, è piccolissimo, adesso appena mi sale il flash li faccio i tappi che sono un po' arrugginiti. Per il posto dei dappi, boh, faccio un disegno, qualcosa, non lo so. Ma come cattura che fai? Sei con il vento? Infatti. Ma siccome anche questo segmento, non è che mi imbezzassare. E il segmento? E i numeri, capito? Un segmento non si accende. Ma lo tengo di scorta all'inter. Ah, non accende, e non sarà il coso del qua, della lampadina. No, è proprio del coso da bruciato, il quarto del display, la giamba. Ma faccio l'altro, c'ho anche, no, intanto c'è anche l'altro, il 48, sì che. Cazzo, c'è il 48, già che affresca la modula, ma. Aspetta che lo attacco. Giù, bubu. Aspetta che lo attacco. Vediamo un po' come esce il gappo. Oh. mi sono mai piaciuti, mai, sempre la modulazione normale, normale, amplificata ma non volevo, ecco. Guarda se ce n'è ancora. Così non ce l'è. Aspetta, c'era un altro acceso. Abbassa che c'è l'altra parte. Ce n'è ancora? Adesso no, fai che c'è l'altra parte accesa, ti innesca. Le cose. Tutto chiuso. Guarda, vedere. Adesso va bene. Tutto chiuso? Sì, via. Adesso va benissimo. Va benissimo. Da rimane che sono usciti dalla rotonda, cazzo non vedo un'anima. Non c'è nessuno. Non vedo un'anima. La maggior parte secondo me sono partiti, sono andato a farsi un weekend che stai lì. Un weekend di paura. Non vedi niente in bassi, cosa ne sai? Anche a me sta arrivando parecchia il turismo. Ma non c'era nessuno, non c'era nessuno. Io quando sono sceso ieri, sì, c'era un po' di gente passeggiando, ma non più di tanto. Cazzo, mi la metto a andare a me. I giorni di Pasquetta con amici, cazzo, si chiama cacchio d'usaio, cazzo, di ramo con i ietti, vendi Giovanni, vendi Rizzo, altri tempi, cavallo, cazzo, non va un'anima, stiamo andando, è sempre una merda sta diventando questa Italia. Ah, ma hanno detto un altro giornale che ne stanno arrivando parecchi per Pasquetta, i turisti. Non so, ma ho parlato, venite tutti oggi, adesso. Bene, mica, le ferie no, non è che ti date un mese prima, no, non è per agosto. Non lo saccio, giaccio. Vabbè, aspettiamo sempre qualcuno là. Oggi sono tutti a letto. Tu, qui sono di 200 alla coscia. Sì, ma domani ci devo andare a carica, di arrostito, devo accendere il fuoco, siamo di arrostito. Davvero? E intanto è caso del vostro, il vostro lunga. E da quando non vi sei preparato? Ah, lo so, sì, sono passato l'altro giorno, ma non sto facendo più niente così, se no ce l'abbiamo fatta pure da fare. Cosa ti arrostello? Oh, cazzo di mio marito, cos'è? Lo chiamavo cagava Marocchino, ma già è andato più di un anno. Senti mai? Perché non sta neanche bene lui. Ah, aspetta. Ti ho segnalato grande buona salita giù vicino con la bicicletta. Sì, intanto non quella va a portare a mangiare al cane, cazzo si fa anche il girasassari, fa un girasassari, cioè andava per una che non c'ha patente, per lui va bene, anzi io mi auguro che non c'ha mani di leggi, che poi nella sicurezza e vivo pure la patente che si è morto. Che si ne è arruinato? Ma era nuova quando andava comparata, già ho credo. Era nuova, mai usata si può dire, mai. E già lo so, non l'ho fatta prendere io. 2 anni ce l'ha. 2 anni, quasi 3 anni, no 2 anni, quasi 3 anni ce l'ha quella volta. Considera che l'hanno usata tutti i giorni. Era nuova sì quella moto, però la usa per forza, si deve andare da mani a rubare, ma se la usa. La moto a carrozzella è un peccato, l'altro giorno gliel'ho portata a fare la revisione, lì dove c'è Bricone, a fianco a Bricone, ho fatto la revisione tutto quanto, però non ne può usare lui. A te non te ne ha più dato. Sì, cosa mi rivolto? Cazzo mi devi dire ci botta a carrozzella. Anzi già che la clarica me ne crackete da stessa moto. Sì, vabbè, però è comodo tenerla, se c'è a portare qualche mobile, qualcosa. Quello sì, cazzo una di la giubiliata, la prima moto che ha avuto però, sempre la moto a carrozzella che le avevano rubato. Cazzo Ha giovato che a punteggio la gufa sembra la madonnina. Si sbilanciano subito, già lo so. Troppo pericoloso con l'altra volta. E poi se prende qualche avvallamento, qualche buco, cazzo un po' così muove sotto. Vabbè, la parte elettronica. Chi sei fa più, tra me e la manovella. Guarda sono belle, guarda, mi sembra che ce n'è una, l'ho vista, una a uno, qui a Santa Maria di Pisa, ancora le prime, col falo rotto, col falo quadrato al centro, e c'è ancora che le usano ancora quelle lì. E poi ne aveva una anche lì dove c'è la campagna a Vanni, cazzo va via, un motore 130, cazzo un po' camminava. Le toccava a luce, però andavano molto meglio, diciamo, avevano più velocità quelle a manovella rispetto a quelle elettroniche. Quelle elettroniche la centralina ti dici tu tanto non ti farti andare, invece chi da manovella pone i pezzi 75 e curriani, chi sono ciotuso, c'è la comodità che c'è un pulsante attento, boh, su chi sono. Ce l'aveva, non so se ti ricordi, Carretto, era di Antonello quella lì, di Antonello fratello, ma quella moto lì era 125, allora non c'aveva neanche patente, mi sembra, Carretto, della macchina. E andava in campagna, non so se te la ricordi, la valada di Rivroci, che scendi giù e sali fino a su, che c'è una salita molto alta. Cacco, beh, andava lì a prendere i bidoni dell'acqua, quei bidoni alti, grandi, quei coperchi, eppure zazzava. Ehi, Zosso, ci avevano più forte. Cazzo che camminavano, sì. Sava che sono pericolosi, cazzo, ma un pericoloso sono. E fu una volta me la giudicavea, a Ripunti, eravamo a Ripunti lavorando, no, a San Giovanni stavo lavorando, dove ho preso un po' la curva, un po' più veloce, cazzo a Giovanni si era tribussa. Tra gente che si abusava in cascione, a me? Sì, cosa? Che se la cosa? Invece di avere l'eva minerale. E se non Franco Raggi, Gesù Maria. Allora è tutta Maria, va a cazzo per carità, va a prendere un cazzo. Va a divenire il cazzo di... C'era più libertà prima, è vero, più libertà, senza assicurazioni, senza casco, non per nulla di che. Vabbè, il casco è già uscito da tanto, la legge del casco è uscita, mi sembra, negli anni 90, mi sembra, 90-95, la legge del casco. E comunque anche l'assicurazione ci sarebbe voluta lo stesso, obbligatoria. Perché veramente se facevi male a qualcuno o provocavi qualche incidente, come ti fa zì? Cioè era un casino, non è male, non va via me gabbo. Adesso sì, hai ragione, ci vuole l'assicurazione. E questi con i manopattini adesso, non ci vuole l'assicurazione, non ne hanno l'assicurazione, senza casco. E queste motorette come ci vanno lo stesso, quello è sempre un mezzo. E se ti sbatti cos'hai? L'assicurazione non ne hai. Infatti la pubblicizzano, non è quella che usava quattro ruote, quello sedile, che la pubblicizzano in televisione. Niente patente, niente assicurazione, niente. Cazzo, boh. Così, l'acqua in rose. Sì, adesso fanno così, te ne vendono. E poi già esci da lì, già ti preoccupa che esci da lì, ci buono di visse, non ti preoccupa. Toglieranno assicurazioni e patentina per quella moto lì. Sabba cosa non rivase. L'assicurazione deve essere comunque obbligatoria, cioè invece per quelli, vedi, tu magari non camminano assai, tutto questo che vuoi, ma è un attimo a cui sta una macchina. L'altra volta l'ho presa quella di mano, sono andata da Michele dove c'è la cantina e stavo risalendo per andare a casa da Vanni e venivano i carabinieri parenti e mi danno i vigilanti. Senti, ma cazzo, una moto o una bicicletta? Io mi sono fatto vedere i pedalenti. Ah, con quella là, sì. È vero, perché con quella non devi pedalare per forza, sennò si ne abbizzano. Perché c'ha l'acceleratore, no? L'acceleratore è la mia norma. Allora, come ti era il giornale, me lo fanno vedere i pedalenti, capito? Senza gas, senza nulla. Vedi, anche lì non c'è un'assicurazione. Ma io non ho comprato una massa. Sempre un mezzo, sempre un mezzo. Che da voi va, che lo ti viene e viene, come ti bello un buco con gatto e si gira tutta la notte. È già che sei imbriato, sì. Cazzo, va via. Per carità, sotto a piccole quelle cose. Ma c'era una signora che, no, c'è più vita, passava qua. Con quella moto per dire che è chiusa, con la specie di cielo, fa cosa va, si va a pensare degli cristalli. E quella c'è il palazzone, che c'è il confine per metterla dentro. Ah, boh, non so cosa va. Ma lentissima. E al palazzone, stai, di fronte alla cora. No, adesso chiude la cona, a proposito, dal 16. Ma lo stanno facendo più grande il negozio. Sì, pescheria l'hanno già chiusa, c'erano i bocchi carton gesso, stanno allargando tutto. Adesso faranno qualche cosa di in più, metteranno qualche cosa in più, ti metteranno anche le guardie adesso. Sì, no, c'era, perché c'era me? Allora, la cona c'era me. Sì, la buona licenziata che bruciava troppo. Tanti si indossi ci vedo sempre, chimi. Per carità. È uno schifo. È uno schifo. Sono uscito a lungo stamattina. No, stamattina siamo andati a Torino, perché ti ho detto. Fa compagnia a Torino. Siamo durati verso mezz'ora. C'è la mia strumentazione. Sto uscendo? Ti ho rimesso 60 con l'altra radio. Che appa! Adesso un po' la precisione. Va bene? Abbassare, scusa, alzarla un po' che basta. Ah, alzarla? Sto uscendo? Adesso va bene, sì. Aspetta, l'ho spento anche qua. Guarda a vedere. Ok, adesso è acceso. Chiappa! Anda bene, nera. E niente. Domani vado lì. Preparo tutta la baladama, il fuoco, tutto quanto. Roba seria? Roba seria, avete? Ah, roba, roba di salsiccione, capocollo, queste cose qua, no, roba di zinino. Il zinino ci vuole troppo tempo a cucinare, a parte che non ce n'era. Già trovi, gente che vuole però mangiarlo, non andare così, infatti. Poca... Se c'è poca gente non conviene. Siamo in pochi, 5 siamo, dobbiamo fare più meno, ma forse. Quindi beh. Bracciole, cavallo, pollo, ma allora. E tu cane cavallo, a parte cane cavallo non gliela degli Yakut, mica la vostra gatto bruciato, cane cavallo vuole quasi un po' al sangue. Se si secca, e non è buona. Oh, te, propagazioni. Quando ho acceso, verso le 4:30, ho acceso la tela, ma la tela, adesso un po' che mi ha rimosso. E in FM anche. E sono lì. Arrivano forte, ma a me non usano i bombelli, tra i 500 in su loro mettono l'aiutino. Ah, ecco, gli aiuta la propagazione, gli aiuta parecchio. Per carità, ma che adesso mi si dice, cazzo buon che chizzo. E io mi stavo preparando anche quel giro arrosto. E così faccio quello, quel mezzagnello. Sì, ma niente, arrosto non è buono, Daniele è buono a fare le numero con le olive, a fare l'arrosto, non è come mai, come il porcetto, maialetto a fare l'arrosto. Daniele rimane troppo asciutto. Tu lo dici fatto così, asciutto. Davvero. Io poi lo spennello qualcosa alla fine, con lo strutto. Oh, io così non mi è mai piaciuto Daniele, mai. È troppo asciutto. L'ho mangiato sempre in umido con le olive, è buono, così già è buono, con le patate lo stesso. La pelle è croccante, No, già è buono, fatta già arrosto, questo non è buono. E poi l'altra metà lo faccio in umido. Ma la mia la solo ti fai, vabbè che se devo solo lui. No, faccio anche altra carne, non è tutti i piatti spagnoli. Faccio anche c'è pancetta, salsiccione, classica capocollo, questa roba qua. A me piace spagnolo. Sì, piace anche a me, però non al rosso. Lo mangio di più, te lo dico, in umido. In umido è buono. A me la patate è l'ideale sua, con le olive. E cosa non è piazzata, Sandra? Non è più la lavoro? No, no. Magari se è piazzata con qualche tetto. Qualche tetto. È diventata da pure architetta. Architetto, buon non sapevo. Ragazzi, giovane, cos'hai? Giovane, calendario, cos'hai? Architetto, giovane. Beh, adesso non so cos'è. Non usaccio. E sicché non hai organizzato neanche con Vanni appunto, Pasquetta? No, sono la mia zia domani, c'è mia zia, mia nipote, Manuela, la ricorda Manuela. Sì. E ci siamo trovati in ospedale quando l'ho ricoverato anche. Manuela, no, quello è Consuelo. E se Consuelo era più piccola, quella lavora lì. Manuela. E tu lì? Allora. Se ne ha brutto. Voglio spendere 500 euro, non so come spenderla, ma non è bidare di questa bucaria, non è prendere quella porcheria, quella è una porcheria, tu lasciate dire da me, c'ha cazzo 30 anni di radio, ma io faccio una cosa, martedì prendo l'aereo, vado fuori, me lo compro e poi torno qua. Martedì devi andare il giorno quando c'è la fiera, tu devi chiedere una cosa, già lo so, a chi? Lui già lo sa i giorni che ci sono le fiere. No, me lo compro nuovo di zecca, che ci costa 1500 euro, ma frega niente, vado lo compro. E allora vai lì dove c'è la Kevo, Kevo degli Aesio, vengono tutte e due marche. Tutte e due marche, Kenwood e Iaesio c'hanno. Però bisogna vedere dove vai. A Milano, che ho parenti. Vai lì a Milano ed è pieno. Dalle zone dove vedo io era pieno di negozi. Faccia per qualsiasi, basta che c'hai soldi, trovi tutto. I soldi non mancano, già lo sai. Basta che c'hai il denaro per trovare tutto. Ma io di quella là, che mi hai detto tu, non è bigliacche, non ne vale la pena. Ecco. Te lo prendi bello, ha una cosa che è nuovo, è blu. Sì, vado fuori. Fuori lo compro nuovo. Fai bene, spendi, secondo le radio prende anche quei 1200-1500 li spendi, ma una radio nuova e sedi a bulo, le ultime che sono uscite, ma non pigli a cazzo 440, che cazzo ne vuole, sì, sono una bella radio, ma hanno fatto la sua vita. Sì, non c'è problema, anche due in aereo che non è prego. Sono radio ormai che hanno quegli anni sui, 30 anni. Cazzo che si faccia qualche cosa, se la devi mandare fuori, che no che non è valsene. No, copro nuovo, basta, non mi fido più, capito. Copro nuovo, garanzia, tutto a posto. Tranquillo, non c'è problema. Ma non vanno bene in 27, non sono tutte che vanno bene mi. Occhio a cosa mi dici. Ma che se no bisogna radio che noi ce ne ne manchi 27. Ciao Natalino, no, non ti preoccupare che io vado con una persona che è a Milano e sa già cosa mi deve indirizzare, capito? Non c'è problema. Oh, attenzione che radio pigli, perché ci sono certe radio che in 27 no, assolutamente non escono, La frequenza già ci vanno, però a uscire escono male, perché non sono fatte per la 27, sono fatte per la banda laterale quelle radio. Se lo richiedo andare bene in 27. Io per esempio ce l'ho una ICOM che va in 27. Però, cazzo, è una signora radio, chissà, non sono tutte le ICOM. Per esempio c'era quello che c'aveva Vittorio che in 27 non usciva, assolutamente. A quanto facevi a capirlo di quanto usciva male? Come saprai? Ma stazione fissa c'è tu o è quello per macchina? No, quella grande. Ne ho due io grandi. E beh, stai vendendo. Assolutamente. Non ne vendo, no? No, io sono orientato sul DX 3000, quello lì. Non lo so se ci va in 27 quello. Quelli sono, ce l'ha Marco, un amico, però non lo so se quello va in 27, perché sono tutte digitali quelle. Invece, per esempio, il 440 va, è analogico. Già cominciano ad andare male dal 450 in su i cable, perché sono digitali, capito? E non è che escano, tu vuoi la modulazione prepotente che va 440, di chi si radio nuovi su ci davano ti ne buoni un cabo. O lo usi per ascoltare e buh, ma in trasmissione sono fatte per andare in banda radioamatoriale. Per la radio prepotente basta questo che ho adesso qua, mi va bene questo, capito? Sono 27, tanto sul motore insulino sono 23, boom, marcia. Quindi, no, a me di X3000 mi piace troppo, quindi sono orientato per quello, a me piace troppo. Anda bene, avanti Manuel. Da S, allora Natali, già ti è la modulazione prepotente per la tua, devi andare con tutto. Puoi fare tutta la modulazione che tu. No, sono proprio le radio che sono fatte per la banda radioamatoriale. Già se le fai andare in AM stanno soffrendo quelle radio. E devono avere anche la scheda per la M, perché sono certe che non hanno manco la scheda per andare in AM, figurati. Ti la devi pigliare a parte. San Ramedotto. Sì, sì, ma un po' calato sì, da 9:19, la giubba giù cosa. Attento, niente strano che tu hai lavato un'antenna. Adesso mi ascolta adesso. Puzziruso, cosa hai fatto? Nulla. Ma cosa nulla? 9:10 di colpa, fai la bravo. Non ho fatto niente, l'antenna. Cos'è? Coricata era, aveva sonno. Un po' abbassata. Te Natalia, gli ha messo un tacchettino. Già l'ho sentito. Guarda. Mi controllo. Cosa controllo lui? Ma non vedi non sono. Un attimo, che questa non tanto si buona in mezzo. E già siamo qua, avanti parole. E così Tony, lì c'ha ragione Natalino, devi sapere quello che prendi, perché la M sono radio che sono per le bande laterali, FM, e la M non è che dipende che radio prendi. I 440, sì, 140, sì, 80, quelli lì escono bene la M, ma sono radio che altri 40 anni fa però. Ma io 440 non lo prendo neanche se me lo regalano, quindi a chi me la gente non basso sono difettosi, sa che mi dì. No, se 80 già è carino. E vabbè, già insomma, c'è una persona che mi indirizza quale prendere, non preoccuparti, però sempre nuovo, perché io secondo me non invidio. Ascolta. devi per le radio di adesso, però devi capire qual è che escono bene la M. E allora, mi adesso ti faccio sentire, te ne faccio sentire una, che non è... Devo cambiare l'antenna, però non faccio commutatori, aspetta un attimo, tolgo l'antenna che ci ha attaccato il default. Ma decametrico e Natali. Mi ha spionato. Aspetta che sta scollegando e collegando. Andare. Oh, oggi mangio pollo. E chi ti ha telefonato, sono no, ci vediamo la pizza con i calamari, avanti la pizza con i calamari, oggi è figlia. E non lo sa, adesso lì. Cazzo. Avanti, dice, poi se la macchina è cosa caduta. Stanotte facciamo un'altalena. Ti appicca la divergata di antenna. Cosa c'è, propagazione? E un po' sì. Sentivo 7, bubbe. Comunque cambia da una modulazione all'altra, Tony. Gappa se cambia, e c'è anche più forte in radio. E vabbè, il microfono è normale quello là. E beh. Io sei tattuglio, vedo se Natalino ha fatto il tutto. Natalino? Hai avuto la garantella. E cosa vuoi? Smontare un PL e rimetterlo, ma... E vabbè, magari ce l'ha messo via. Esatto. Ehi, non va via manco un microfono. Guarda. Prova a modulare da lì. Posso anche aumentare la radio, guarda, 1, 2, 3, prova, vai. Ottimo come radio. Sì, è bella chiara la radio, però un po' basso il segnale. Vabbè, basso il segnale. Ma guarda che a me sta arrivando 9.30 quasi. Sì, vabbè, ma anche da me arrivava con l'altro mi arrivava più forte. E avevo mentre di gioco arrivendi. Basso in radio. Oh, Manuele, guarda il segnale adesso. Ha aumentato. Adesso sei tu. Basta aumentare, è logico che... Dice adesso sei tu. E anche prima cos'era? Non era Natalino, che era Giovanni. Era più basso. Ma comunque la radio è più buona questa, è bella, bella squillante. E questo qual è Natalino? L'Icon 725 è questo. Ma qua c'è anche l'accordatore. No, accordatore non è a questo. Già ce l'ho l'accordatore manuale io, ma la radio non ce l'ha questo. Questo è appena revisionato addirittura. La prima della Miruga, Miradadu appena revisionato, me l'ha fatto pagare un pacco di soldi, però cazzo, è una signora radio, Wiccia. Anna Nugnarugu. Mandami la foto a vedere. Aspetta. Da che io vado a prendere il telefono che è in cucina. Tonia, vai da dai. La sto guardando, è bellino. Sono radio di 30 anni fa anche quella, Tonia. Ma non è quello che tu mi hai mandato, ve ne sono 3 o 4 in bari. Icon 725, tu guarda Icon 725, non puoi sbagliare. È quello di Natalino. Sì. È uguale, anche Natalino me l'ha mandato. Dai, carino, dai. Te l'ho mandata, Manuel. Così non... Però questa c'ha la scheda per andare in AM, questa c'ha tutto, hai capito? Se no non ci vanno in AM. Lo so, devi avere la scheda per la M, lo so, l'ho già avuta anche io quando ero su a Milano. Se non c'è la scheda la M neanche a morire esci. Esci sì, però è come che stai uscendo con un barattino con un CB. Infatti, questa in AM esce con 80 watt, poi in banda laterale 100 watt, capito? Però non la devi mai mandare al massimo in AM, perché queste radio soffrono quando vanno in AM, perché sono fatte per la banda radioamatoriale, non per... Io la uso solo in ascolto, capito? Bene, massimo in AM le puoi dare 25 watt e basta. 15-25 watt, non a metterlo a 50, se lo metti a 50 la spacchi quella radio lì. No, anche con 80 watt sono uscito io. Però non fa, capito? Però vedi, è bellino, però c'è una cosa che a me non piace, il frequenzimetro. A me piace quello che esce, frequenzimetro azzurrino, diverso da questo qua. Però queste sono poche le radio che escono come esce questa. Questa è appena revisionato, mi l'ha fatto pagare, cazzo, un pacco di dinamo. Capita, non mi l'ha fatto pagare, gira gira più di quanto vuoi, c'è un baracchino. Questo è sui tempi, costava un casino di soldi, mi avete buttato in capo, mica noi è un giocattolo. Adesso sto uscendo al minimo proprio, che posso uscire. Allora, facciamo un'ipotesi, tu dovresti venderla, quanto la venderesti? Un'ipotesi? Per quanto ci ho speso io, non meno di 600 euro. Sembra un po' vecchiotto come apparato, cioè nel senso vecchiotto, non lo metto in dubbio, se non avrà anche un grafico eccetera eccetera, è tutto bene, però come modello, diciamo, capito? Già lo so, ma io me lo tengo per ascoltare, non per altro. C'ho anche il DSP, gli attacco il DSP, mi toglie tutto il QRM, sento cose che senza DSP non le senti. Questo qui c'ha un bel di roba, c'ha. Mentre l'altro cos'è invece che hai? Un 440 l'altro, me lo stanno revisionando. Gli ho comprato l'encoder nuovo perché era difettoso e allora gliel'ho comprato nuovo. Mi è arrivato l'altro giorno e me lo devono installare. Capito? C'è un amico mio che è tecnico e me le fa queste cose, capito? Però non ne va di nessuno, no, in Sassari, è un casotto. E infatti con il 440 c'ha il difetto che mi ha dato. Oi, oi, oi. Avanti, Manuel. Ma dipende da come lo tratti. A me non mi ha fatto mai nessun difetto. Manuele. Se mi fa vedere di sopra, riprendi tu che rimango un attimo in quell'ex. Ah, allora si scattò fenditore, dai, avanti a te. Uia, andà bene. Solo che cosa vuoi ti dica? Il letto non parla bene. Io le uso per ascolto, Andiamo bene, andiamo, E infatti me ne devo comprare una per andare in banda laterale perché ce l'ho io il superstar, no? Però quello lì è omologato e se voglio andare nel canale di chiamata non ci posso andare perché è chiuso e non lo voglio aprire quello. E me ne voglio buscare uno per poter in estate, per poter andare in banda laterale, capito? A me piace mai il DX3000 perché ha tutto Natalì. È bello vedere anche per ascolto, giustamente, non è che mi interessa modulare con una cosa del genere. Con quello c'hai tutto, c'hai, è bello. Ma non lo so se va in AM, bisogna che mi informo che ce l'ha. Quello che mi ha dato questo c'ha il 5000, il 3000, c'ha. E bisogna chiedere se il 3000 va in AM, già costano un botto quelli lì, comprandoli nuovi. Mi hanno detto l'ICOM, aspetta, il 7003, il 7003 diceva benissimo. 7003, ma è superiore al 3000? E in chi visemo? C'ha anche lo Iaesu 1200 che c'ha quell'altro amico, va bene, quello lì l'ho sentito io e va bene, in AM va bene, il 1200, Iaesu, è della stessa serie del 3000, c'ha l'analizzatore di spettro, gli hanno poco di cosa. Sono belli, dai, almeno c'hai un apparato che ha tutto, capito, e fa anche bella figura, diciamo, mettendolo qua nel mobile che ho io, è tutta un'altra cosa. Lo so, ma poi devi avere antenne, cosa cazzo di ne fai a usarlo con l'antenna di la 27, chi intendi solo la 27, la sta roba non la intendi. Metterò una decametrica, qualche cosa metterò, capito, io lo spazio ce l'ho nata lì, posso muovere tutto in cima dei piazzi, c'ho l'ordine di fare tutto quello che voglio, posso muovere una direttiva, posso muovere ciò che voglio, non c'è problema. Lo so, anche una verticale multibanda potresti mettere per ascoltare. KP. K. Se possono verticale in multibande forse è meglio, perché è meno ingombrante. Io me l'ho fatta, però non è verticale, la mia l'ho messa in orizzontale, l'ho messa. E l'ho fatta io, quella multibanda, con quel toroide, te l'ho fatto vedere quel, dove c'è quel toroide che ho fatto io. Vabbè, uno si arrangia come può, dai. Io il posto qua ce l'ho perché sono tutto aperto. Tu ovviamente più che quel posto lo puoi utilizzare. E infatti. Quelli lì ce l'hanno già dentro, il DSP per esempio, quelle radio tipo il 7003, il 1002, il 3000, l'STX10, sono di quella serie lì, radio nuove, sono, costano un botto di soldi. E poi non le puoi usare perché sono radioamatoriali, capito? Le puoi usare solo in ricezione oppure in AM se ci vanno, perché non sono tutte che ci vanno, capito? Se due ci va, perché ce l'ha un amico e lo usa. Make-up. Andrà bene. Ma dove sei entrato? Devi vedere, Tony, tu. A te se ti piace la modulazione forte, devi vedere che radio prendere. Modulazione forte spesso, compro un apparato del genere, mi interessa solo l'ascolto e basta, per bellezza più che altro. Modulare va bene questo che ho adesso, perché come modulazione è ottima. Va benissimo. Va benissimo. Infatti poi sono complicati, mamma mia, gli hanno poco di cosa da regolare, gli apparecchi. Sono tutti pieni di menù, di ventimatto, solo a regolarlo. Si tratta di un figurati. Andata lì, cioè, hai avuto quindi 10 metri radio. E con menù lo stesso è un casino, che dice, ma che dai? Io sono uscito fuori il gabbo, infatti non lo sto neanche usando. Te lo sto dicendo, e quello è un baracchino. Figurati cosa tutto va. In realtà all'inizio quello che piace a te. Attuati, sto guidando, diventi macca a rigurarlo. Devi prendere il libro delle istruzioni, leggere, devi sapere cosa sei ducchendi, a chi secondo cosa tocchi, lo gribimi, un apparecchio del genere. Noi che vivono assai, perché sono delicati pure come apparecchi quelli. Beh, se non ci mutano come fai a crepparlo, scusa? Se ascolti soltanto e basta, però se non, per ascoltare bene ritocca e secondo cosa tocchi è un casino a rimettere a posto, è questo il problema. Io ti ho detto, sono aperto per bellezza, perché mi piace un bel... È già complicato il 440, figurati, quelli lì che sono tutti a menù. Cazzo. Per esempio il 140 io non l'avrei mai preso, a chi pigli coi pira tutti i bassi. 680, aromatesi, pieni di colpi, perché sono praticamente dei baracchini a sintonia continua. Mi, Emanuele di Robodì. Cosa so, chissi? Non è che ti voglio scoraggiare io, però è così. Emanuele te lo può dire come sono quelli lì. Hanno solo una modulazione forci e basta. Buongiorno, mi devi aspettare. E voi tirate, sennò se tu non lo dici uno di questi apparecchi non ci va con quei watt e con quella modulazione. Gli devi mettere mano. Manco in AM vanno, mi. Se tu non ne sali il diodo, per bisogna salire dei diodi per poterlo fare andare in AM. Quelli qui che vuoi, già ti dici di Emanuele come ci so. Che mi sistemo qua perché c'è un casino, io sempre sto spostando, però e non mi sembra casino. Aspetta, rivedete voi, ripeti Manuel. Devi saperle usare, Torino, tu che non li hai mai avuti, uscirai un po' di testa, dovrei capirli prima. Dovresti capirlo un po' prima. Un po' ti faranno uscire di testa, sicuramente. Manuel, già non riesci a trattare Chi su maracchino che fa più io, chi io l'avevo tutto rigurato, con i menù e tutto, e c'è una bomba, lo sai rifatti che fa che sa parecchio. Certo. Tonino te lo può dire. È importante, no? E c'ha un frequenzimetro bello, grande, tutto questo di voi, però è a menù. Questo si fa diventare un macco. Figurati un apparecchio decametrico. Cosa tutto c'ha da regolare? Mamma ti. Solo per la pelle tastiera e ti metti le mani in testa. Cos'è anzi darsi i mani? Non lo veda su sacca, che dopo non impiglia più. L'importante è diventare sempre nel menù. Per qualsiasi cosa diventare nel menù. Ah, quello è poco ma sicuro, mi. Già, ce l'ha quell'amico il 1002. Già fai la M già, ma ogni volta esci così miniata sino a chi non si tocca che cosa di già ambaduto. Che certo ti fa? Devi stare attento a non toccare quello che non devi toccare, capito? Fede così. Lo manda tutto in palla la mano, secondo cosa tocca. Infatti, non è chiuso. Mi è entrato chi sudore, mi. Tu cazzo il papi denti che non ne sa nemmeno di chi sa parecchi, Edu. Cosa ne sai tu di chi sa parecchi? Tu sei con la 340, Edu. Chi sei un baracchino a sintonia continua. Ma cosa sei di Zendi? Cosa mi stai dicendo? Non ne so più tratta. Qui ne abbiamo una.